Where is mine? Mine love. Traditi senza pietà, negli anni spariti, annichiliti dalla stessa società. Qui non c'è opportunità, c'è un mondo che fa pietà. Discriminazione, ignoranza, non si fa a metà. Questa volta prendo tutto il malloppo, non ti lascio che l'osso. Grazie lo stesso di essere così onesto. Questa volta la discriminazione non ci sarà. Cara mia bella società, mi fai un po' pietà, della tua scarsa metrica. Rielaboro questa roba come fosse un kamikaze. Sulla strada rimango tipo una scena di brazze, inespressamente latente, forma tumultuosa di una mente. Sono nell'eco come un delfino, ecco, come dice il mio dottore. Non sono un uomo, sono un animale. Massaggio, non sono Paolo Villaggio. Cosa hai capito? Io punto al mito, io punto al mito, io punto al mito. Tu fammi il terzo dito e dici vaffanculo a me. Io ti carico con una fiumana di parole. The legs of human is full of false mood now.